Benvenuti a Gironimo da parte di Zeman. Amiche e amici del ciclismo, delle praterie del Giro d'Italia, dell'Abruzzo e anche del calcio, perché oggi è anche una giornata di festa quasi nazionale per quanto riguarda il calcio dopo l'assegnazione del campionato di ieri, e con il calcio siamo entrati in questa nostra prima puntata di Gironimo attraverso il saluto di una piccola istituzione dell'Abruzzo dei nostri giorni, ovvero Mr. Zdeněk Zeman. Con cui parleremo più tardi, cioè abbiamo già parlato con lui, però lo ascolteremo più tardi all'interno di questa nostra prima puntata, anzi no, puntata numero zero, perché non è la prima puntata di Gironimo questa, mettiamo subito le mani avanti, non abbiamo ancora cominciato. Per cui può andare male, non so, facciamo sì, una registrazione così, come viene viene. Ci stiamo riscaldando. Però benedetti dal mister, secondo me, già questa ci viene bene, ma chi siamo noi prima di fare tutti questi queste saluti? Domande esistenziali tanto per cominciare. Questo avremmo dovuto chiedere a Zeman. A mister. Chi siamo? Chi siamo? Io sono Filippo Cauz. Io sono Leonardo Piccione. E io sono Michele Pelacci. Qualcuno, anzi tanti, ci avranno già sentiti sulle strade. Beh, tanti di quelli che ci stanno ascoltando adesso. Okay. Alcuni che ci hanno già sentiti non ci staranno sentendo perché non ne possono più delle nostre voci. C'è anche questa possibilità. Io e Leonardo siamo i fondatori del collettivo Bidon. Abbiamo seguito già. Questo è il quinto consecutivo. Il sesto consecutivo in totale. Sì. Giro d'Italia. Sesto Giro d'Italia che affrontiamo sotto forma di podcast. Michele Pelacci, che come me è anche un collaboratore regolare della rivista di Al Vento. E con me ha condiviso anche l'avventura di Cherchez les Femmes, il podcast quotidiano sulle strade del Tour de France femminile della scorsa estate. E quest'anno secondo giro per te, lo dici con uno sguardo, non capisco se allucinato o trasognante. Impaziente di farne altri. È ancora iniziato questo. Il secondo da cominciarlo, sì. Esagerato, come al solito esagerato Pelacci. E noi siamo ancora una volta a fare un podcast nel mese di maggio che non è un podcast sull'Eurovision Song Contest. E io sono un po' contrariato da questa ricorrenza. Ma credo che anche di questa cosa ne parleremo. Questo è un podcast nuovo. Gli abbiamo dato il nome di Gironimo perché, insomma, è la guida che ci permetterà di scrutare l'orizzonte di questo Giro d'Italia. Noi cavalcheremo il nostro bisonte all'inseguimento della corsa. No, in realtà il nostro obiettivo è nel tempo chiamare il nostro podcast con tutte le parole, i giochi di parola possibili, modificando sostantivi che inizino con gero. Quindi noi ci chiamavamo Giroglifici fino all'anno scorso, quest'anno da Gironimo. In futuro, penso, molto presto per quanto ci riguarda, forse ci chiameremo Girontologia. O girontocrazia, dipende da come la vogliamo. C'è questa possibilità e pian piano, finché non arriveremo alla geriatria, anche questa potremo utilizzare. Un podcast nuovo perché sono nuovi i nostri compagni di viaggio, che sono chiaramente Al Vento, che siamo qui a rappresentare, usiamo questo termine quasi da rapper, in questo Giro d'Italia, e Shimano, che è il nostro partner su tante cose in questo giro, e poi vi racconteremo. E ci darà delle opportunità nuove anche questa collaborazione di quest'anno, ma ne parleremo meglio più avanti. Direi di entrare un po' subito nel vivo. Perché non abbiamo detto dove siamo, che comunque è sempre importante, diciamolo. Perché avete sentito la voce di Zeman, dite siamo a Pescara. L'epicentro del giro oggi era Pescara, in realtà noi siamo a Montesilvano, località di mare dove già passammo con il giro dell'anno scorso. Io feci il bagno, oggi non mi avete lasciato un minuto per fare il bagno, maledetti, domani vediamo di compensare questa lacuna. Località in cui già facciamo parecchie interviste, in questo stesso hotel, per cui questo è l'hotel in cui abbiamo fatto interviste più volte nella nostra vita. Non in questa stessa camera dove ci troviamo adesso, però. Non in questa stessa camera. 606, se volete venirci a trovare. A porgere omaggi alla camera dove abbiamo registrato la puntata zero di Gironimo. Siamo in un posto un po' particolare perché è un po' la foce del fiume Saline, qui a Montesilvano, dove oggi abbiamo visto correre lungo le rive del fiume molti corridori, vero Filippo? Ma io no, però tu forse sì. Io neanche uno, erano tutti in spiaggia. Li hai visti tu? A fare il bagno, no, alcuni facevano il bagno. Eravamo in macchina assieme io e Filippo mi indica quello è Lorenzo Rota, e me lo ricordo. Sì, ma non eravamo sulla foce, eravamo di fianco al campo d'allenamento del Pescara. Comunque, più o meno, va bene. Vabbè, forse è l'occasione giusta per raccontare ai nostri ascoltatori vecchi e nuovi che Michele Pelacci è il più giovane, largamente il più giovane di questa squadra, e quindi ha un po' quell'entusiasmo, così come hai detto prima, trasognato dei giovani che guardano anche cose che non ci sono a volte, e quindi cercheremo di avere pazienza noi con lui e lui con noi. Sì, possiamo comunque dire che effettivamente Lorenzo Rota c'è, lo abbiamo visto, è sì, anche in albergo con noi, per sì, cui lo abbiamo visto più volte con anche mise differenti, come anche altri corridori. Ce n'è tanti di corridori a questo Giro d'Italia, come ogni Giro d'Italia, tanti quanti ne permette l'UCI. Magari potremmo di più, è difficile, di più è difficile. Sono cambiati molti nomi all'ultimo minuto, anche all'ultimissimo minuto, per problemi non legati alle regole. Ne parleremo anche di questo più avanti, però cominciamo a entrare nel vivo citando i due nomi più attesi di questo Giro d'Italia, perché questo Giro d'Italia dovrebbe essere sulla carta, tutti stanno ripetendo e sostenendo che sarà un duello tra Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Erano tanti anni che il Giro non si presentava come una corsa quasi, come dire, nata per far incontrare o scontrare due campioni di questo livello, no? Sì. Molti stanno sostenendo che il livello di questo Giro è il più alto da molti anni, se non decenni, a questa parte. Forse un duello così non si vedeva dai tempi di Basso e Simoni, mi viene da dire. E comunque anche Ivan Basso ho visto ben due volte nella hall, per cui certo, Simoni no. Gilberto Simoni non ancora, magari ci viene a trovare. No, possiamo livello... dire subito, ti anticipo, come li chiamiamo questi due? I duellanti è brutto, dobbiamo trovare... Cioè, tu ce l'hai già? No, non ce l'ho, mi è venuto in mente in questo momento, non l'ho neanche segnato nella mia scaletta. Però teniamocelo presente, nel corso di questo Giro, se questo duello avverrà, dobbiamo dare un nome a questi due sfidanti, due spadaccini, non lo so. Ci penseremo. Intanto non è un duello nuovo in assoluto, al Giro è nuovo, però è un duello che pochi mesi fa abbiamo già conosciuto alla Vuelta, che Evenepoel poi è riuscito a portare a casa, anche abbastanza nettamente. E sono due corridori che hanno molti punti in comune, perché entrambi banalmente vengono da sport che non sono il ciclismo. Non so se sapevate già che Roglic ha fatto salto con gli sci prima di diventare ciclista. Non vorrei svelarvi così questa curiosità, ma ve lo dico. Mentre Evenepoel faceva il calciatore, giusto per essere precisi. Sì, girano voci che un'estate in vacanza con la famiglia sul Garda Evenepoel abbia anche giocato una volta a ping pong. Davvero? Nel campeggio, quindi... sì. Non si sa se ha vinto o perso. Probabilmente ha vinto, perché Evenepoel è uno di quegli esseri umani che praticamente gli riesce qualsiasi cosa, gli riesce bene qualsiasi cosa si dedichi a fare. Quantomeno era un bravo calciatore ed è uno dei ciclisti più forti del mondo, campione del mondo in carica. E sono simili non solo per questo, ovviamente questa è una spigolatura, ma perché vanno tutte e due molto forte a cronometro, molto forte sul passo, entrambi non sono scalatori puri, entrambi non sono specialisti delle salite lunghe e difficili, che sono poi un po' in realtà il sale o la caratteristica principale di una corsa come il Giro. E Roglic in particolare ha una storia, una piccola grande storia di crisi nell'ultima settimana, quantomeno una enorme ce l'ha avuta, che è forse quella che caratterizza in assoluto la sua carriera finora, uno dei punti che caratterizzano tutta la sua carriera. Vi ricorderete la planche de Belfille, quando perse da Pogacar. E Evenepoel nella sua brevissima carriera, anche lo stesso anno scorso alla Vuelta, nella terza settimana ha avuto dei momenti di parziale difficoltà che è riuscito poi bene a recuperare. Però ecco, sono entrambi corridori che nella terza settimana, in una terza settimana come quella del Giro, non hanno garanzie, non ci danno, almeno a me, garanzie assolute di consistenza, come dire, fino alla fine. Quindi sono simili anche da questo punto di vista. C'è una cosa fondamentale in cui sono opposti, che è il punto della carriera in cui arrivano a questo Giro d'Italia. Quindi le loro due parabole si incrociano, e il punto di tangenza è questo Giro d'Italia, una in fase di ascesa, di netta ascesa, che è la parabola di Remco Evenepoel, e una tuttora all'apice, ma comunque a 33 anni di età, quella di Roglic, sta già conoscendo un inizio di declino, evidentemente. Quindi si trovano, sono corridori simili, in momenti opposti della carriera, e chi vince? Chi è il favorito tra questi due, che sono i due grandi favoriti a detta di praticamente tutti? Cominciamo subito così. Siamo lì, siamo 50-50. Peraltro si sono incontrati non solo alla Vuelta dell'anno scorso, ma anche alla Volta di quest'anno a Catalunya, ed è stata tra di loro, insomma, una questione privata. Non è facile capire chi dei due è davanti. Di certo la squadra di uno dei due sta venendo pesantemente, insomma, martoriata dalle assenze. È di oggi la notizia che anche Jan Tratnik, un gregarione importante per Roglic, non sarà al via. Verrà rimpiazzato da Thomas Gloag, che è giovanissimo al primo Grand Tour, per cui molte cose da vedere anche in questo senso. La squadra di Evenepoel, mi viene da dire, è molto più rodata. Jan Hirt è un ottimo gregario, per esempio, quindi Filippo, secondo me, sarà un bellissimo duello, considerando anche il fatto che saranno ben 7 le salite sopra i 2000 metri in questo Giro d'Italia. Ok, è un conto anche falsato dal fatto che, per esempio, il Parco del Sempione, no? Quello a Milano, il Passo del Sempione. C'è la collinetta, anche lì c'è la biblioteca, ci andavo a studiare. Sì, ok, il Sempione è una finta salita oltre il 2000, però l'arrivo già sul Gran Sasso nella prima settimana, insomma, sono tante le tappe in salita, montagne dure. Per cui soprattutto la terza settimana sarà, banalità, decisiva. Sì, questo sicuramente, poi dopo parleremo un attimo del percorso, non ho alcun dubbio. Io vedo un'altra differenza tra questi due corridori. Non, ti direi che non mi sbilancio nel fare pronostici, ma quando mi sono fatto le mie stellette prendendo appunti ne ho messe 5 a Remco e 4 a Roglic. Questo forse vale di suo come un pronostico, che però non farò. E la differenza che vedo è la tattica di corsa, il modo di affrontare la corsa, che è abbastanza agli antipodi in questo caso, perché Roglic ha dalla sua questa sparata, probabilmente è il miglior ultimo chilometrista del mondo, ha questa sparata incredibile, ci ha vinto 3 Vueltas prendendosi gli abbuoni, vincendo 200 tappe ogni edizione con queste sue sparate nel finale. Remco Evenepoel l'abbiamo visto già nei pochissimi anni della sua carriera, che è uno in cui invece scappa costantemente la gamba, questa voglia di attaccare costantemente da lontano, da vicino, da casa sua, da casa degli amici, e insomma è un corridore abbastanza imprevedibile, è un corridore più o meno conservativo, forzatamente perché ha delle qualità che giustificano questa cosa, è un corridore molto imprevedibile, questa cosa li differenzia e penso che possa incidere sulla corsa, anche se sarà figlia poi della dinamica di quello che succederà in corsa, perché è ovvio che se un Evenepoel si trovasse con 2 minuti di vantaggio nessuno mai, anzi, verrà frenato nei suoi istinti di galoppo. Ecco, forse poi adesso ne parleremo affrontando gli altri nomi. In tanti hanno ricondotto un po' questo dualismo a una sfida che abbiamo già visto, che fu quella tra Roglic e Nibali nel 2019. In questo giro manca un Carapaz, manca un Jolly. Che può, secondo me non manca. Che può scardinare questo dualismo così anche tatticamente diverso. Però ci arriviamo, perché adesso parliamo degli altri. Volevo tornare al paragone che hai tirato fuori al duello, che poi non fu in realtà tra Nibali e Roglic nel 2019, perché in questo caso le situazioni sono un po' capovolte. Cioè Roglic fa il Nibali, dal mio punto di vista, in questa situazione, perché è lui che deve mettere addosso a Evenepoel un po' di pressione anche psicologica, che è forse un aspetto nel quale Remco ha ancora dei difetti. Io ho l'impressione che Remco Evenepoel, quando non si trova solo davanti a tutti con un vantaggio sostanziale, non è tranquillo, e quando in questo giro qualora non dovesse riuscire a rimanere solo, a staccare Roglic, potrebbe anche subire psicologicamente, dal punto di vista nervoso, la presenza di un avversario come Roglic, che negli ultimi anni invece è maturato molto anche dal punto di vista mentale, non è più il corridore incerto e nervoso che nel 2019, in questo presunto iniziato e mai finito duello con Nibali, si fece poi superare, entrambi si fecero superare da Carapaz. E soprattutto questa cosa è fondamentale, bisogna dire che Roglic dovrebbe sapere, glielo diremo noi se lui ancora non lo sa, ma credo lo sappia, che la canzone della Slovenia che parteciperà all'Eurovision Song Contest la settimana prossima si intitola Carpe Diem. Non so se lo sapevate, il titolo della canzone slovena di quest'anno è Carpe Diem. Non lo sapevo perché io è tutto il giorno che canto solo la canzoncina su Remco Evenepoel ispirata ai ricchi e poveri, che non vi facciamo sentire quest'oggi, ma se ne vale la pena. Ma ci sono tanti altri corridori, come dicevi, Leo. Sì, dicevo prima che secondo me il terzo incomodo c'è, potrebbe esserci ed emergere tra l'eventuale controllo che in linea teorica può condizionare questo duello tra Roglic e Evenepoel, e risponde al nome dell'unico già vincitore del Giro al via di questo Giro d'Italia, che è Theo Gegenhardt della Ineos, in virtù non tanto del Giro che ha vinto già 3 anni fa, ma soprattutto dello stato di forma con cui è arrivato a questo giro, perché ha vinto, anzi dominato il Tour of the Alps, ed ha una confidenza, un ottimismo che si percepisce dalle sue parole, dal suo volto, che non gli si vedeva appunto dal 2020. Ha una squadra molto forte, a mio modo di vedere più forte anche di quelle di Evenepoel e Roglic, perché insieme a Theo nella Ineos ci sono Geraint Thomas, Timen Arensman e Pavel Sivakov, che potrebbero essere capitani a loro volta per la classifica generale, e ha appunto dalla sua soprattutto l'esperienza e la tenuta nella terza settimana, perché nella sua vittoria del Giro del 2020 Theo fece una enorme terza settimana al Giro. Si è rivisto al Tour of the Alps in diverse tappe il vecchio trenino della Ineos. Un vagone importante è stato Laurens De Plus, quindi veramente una squadra sembrata molto quadrata, molto compatta, tutti in grande forma. Addirittura potrebbe non essere alla fine del Giro d'Italia Geraint Thomas, Theo Gegenhardt, il granatiere sul podio. Potrebbe non esserlo, certo, potrebbe non esserci neanche un granatiere sul podio, se proprio vogliamo dirla tutta. Quindi voi intravedete la possibilità che in realtà, nonostante tutto quello che ho appena detto, non sia lui il capitano per la classifica generale? No, io credo che sia lui. Allora, le prestazioni al Giro delle Alpi vanno sempre soppesate quello che valgono, cioè nel senso, poi il Giro d'Italia è un'altra cosa. Sicuramente Gegenhardt è in ottima forma, sicuramente vogliamo un bene dell'anima a Theo, ma sicuramente non è un corridore del valore di Roglic ed Evenepoel a livello assoluto, però sappiamo che poi in una corsa a tappe tante cose possono succedere, soprattutto quando è lunga 3 settimane ed è difficile e arzigogolata come questa. Io personalmente non lo vedo nemmeno come il terzo uomo, ma sono molto curioso di osservarlo, perché quando ragionavo poco fa sulla chiave tattica che differenzia i due duellanti, pensavo che Gegenhardt, abbiamo visto quel giro del 2020 che fu un giro però molto strano anche dal punto di vista tattico, è un corridore di cui ancora faccio fatica a dire qual è il suo stile di interpretazione della corsa, e quindi mi siedo e guardo. Quindi andiamo avanti rispetto, scorrendo nei nomi che potrebbero lottare per vincere il Giro d'Italia, perché a questo punto arriva la squadra campione in carica. Purtroppo al Giro succede spesso, e forse uno degli elementi che ancora lo rendono diverso da un certo punto di vista inferiore rispetto al Tour de France, che chi lo vince quasi mai torna a difendere il titolo, almeno negli ultimi anni. Non c'è questa tradizione, diciamo così, importante, significativa, di tornare per difendere il titolo. Jai Hindley, il vincitore del 2022, non è tornato al Giro per provare a difendere il suo titolo. C'è la sua squadra, ovviamente, ed ha un corridore, o forse due, candidati a fare classifica generale, non so se per vincere, per un podio o chissà cos'altro. Si tratta di Alexander Vlasov e Lennart Kemna. Alexander Vlasov, che è arrivato quinto al Tour de France dell'anno scorso, e Lennart Kemna, che è stato invece l'MVP, almeno a nostro modo di vedere, del Giro, perché fu colui che fece andare in pratica fuori giri Carapaz alla Marmolada, se non vado errato. Chi è il capitano della squadra che difende il titolo? Chi farà classifica, Vlasov o Kemna? E chi può fare meglio, secondo te, Michele? Di nuovo, deve partire Vlasov, però attenzione a Kemna, che è sicuramente un corridore in crescita, in grande crescita, è tornato benissimo l'anno scorso, quest'anno sta andando forte. Io però Vlasov lo aspetto un po' al varco, cioè Vlasov deve farci vedere che può arrivare su un podio di un grande giro. non l'ha ancora fatto, ha fatto quarto al Giro 2020, quest'anno può essere il suo giro. Un'altra, una coppia simile per caratteristiche a quella della Bora, cioè il corridore di cui sappiamo grosso modo i limiti e uno emergente, meno esplorato e teoricamente anche più interessante, è la coppia della UAE, dove c'è João Almeida, che è un corridore che conosciamo benissimo, anche lui amante del Giro, di cui conosciamo pregi e difetti, e poi c'è Jay Vine, credo si pronunci Jay e non Jai come Hindley, nonostante siano entrambi australiani, che ha un potenziale effettivamente eccitante anche per la classifica generale. Ha fatto una vuelta incredibile l'anno scorso, che non è riuscito a finire, e è partito molto bene anche quest'anno. Questa volta chiedo a Filippo chi nella UAE poi farà classifica generale, sarà il capitano tra João Almeida e Jay Vine. João Almeida. Basta, nessun'altra aggiunta. Ma sì, ma non c'è paragone. Poi la strada parlerà e chiaramente dirà altro, però João Almeida è un corridore la cui solidità ormai, cioè, siamo ancora a mettere in dubbio quanto è solido. Guarda, João Almeida. Io no, non sarò io a metterlo in dubbio. Io credo che Almeida, io, secondo me Almeida è la terza forza di questo Giro d'Italia, dopo i due di Oscuri. Sto continuando a cercare dei nomi buoni per questo duello. Prima o poi mi verrà in mente, probabilmente non dormirò stanotte, ma domattina farò il bagno. E Almeida è sempre lì. Sappiamo che non ci possiamo aspettare i fuochi d'artificio da Almeida, perché non è nelle sue caratteristiche di corridore. Ma poi magari invece ci sorprende e li fa, perché poi, soprattutto dopo stanotte a Napoli, i fuochi d'artificio sono un elemento che sarà molto diffuso prossimamente. E no, non so cosa dire. Tra l'altro è un giro che ha tanta cronometro. I due favoriti sono degli ottimi, eccezionali passisti. E João è un altro cronoman che ha molto la sua da dire. Ad esempio di Geoghegan Hart, per esempio, che questa cosa non l'abbiamo menzionata. Però come, in teoria, potrebbe uno come Almeida vincere un giro contro Evenepoel e Roglic? Potrebbe vincerlo. L'unico modo, secondo me, non ha grandi possibilità di vincere. Se quei due lì stanno bene, si sfidano e se la giocano, non vedo nessun altro che abbia possibilità di vincerlo. Però le corse a tappe, e lo ripetiamo e lo ripetiamo e lo ripetiamo, sono aperte a tante sorprese e soluzioni. Secondo me il modo in cui potrebbe vincerlo è se uno dei due crolla, se viene a mancare anche uno solo dei due, perché l'altro si appoggerà a questo dualismo, e nel momento in cui verrà a cadere questo dualismo, un corridore come Almeida, che generalmente se c'è una cosa che non fa è crollare, sarà lì. Non lo so, è interessante agganciare il tuo discorso anche a un'altra squadra che può avere vari capitani, no? Che può essere la Bahrain Victorious. Jack Haig, Caruso. Buitrago va forte in salita. Attenzione a questa squadrina. Se decideranno, se faranno qualcuno, no? Corridore nel mese della vita, potrebbe essere un'altra gatta da pelare discreta. E poi, giusto per chiudere un po' la panoramica dei corridori della classifica generale, c'è la EF con Hugh Carty, ormai anche lui abitué del Giro d'Italia, che arriva forse quest'anno davvero con una condizione molto buona che non aveva gli anni scorsi, almeno così sembra. E poi Rigoberto Uran, che c'è sempre. Beh, c'è sempre al Giro, mi sa che non veniva da... Non veniva al Giro dal 2016. C'è sempre nei nostri cuori, ecco, non avevo finito, non avevo completato il pensiero, e ci stiamo qui però... Come quasi tutti gli altri, diciamo. Come tutti gli altri. Ci stiamo dimenticando di Thibaut Pinot, ovviamente una dimenticanza voluta. È giù sul divanetto nella hall, sì. Come l'hai visto? Rilassato, nervoso? Boh, mi sembrava molto tranquillo, adesso non so se vogliamo andarlo a chiamare. Stasera facciamo silenzio, Pino deve riposare bene, deve essere al top per domani, ok? No casino, mi raccomando. Vabbè, ma spero non resti sul divanetto tutta la sera, buon Pino. Pino che è all'ultimo Giro d'Italia della sua carriera, perché si ritirerà a fine stagione, e che l'équipe questa mattina ha definito le trouble fête, il guastafeste, alludendo al fatto che Pino possa in realtà, contrariamente alle aspettative, non lottare per la vittoria di tappa, ma forse anche fare classifica generale. E un Pinot in gran forma al Giro, che lotta per la classifica generale alla sua ultima apparizione in Italia, non sarebbe un brutto spettacolo dal mio punto di vista. No, sarebbe bellissimo, siamo tutti grandi fan qua e che dire, potrebbe veramente andare forte, glielo auguriamo. lo auguriamo, perché l'ultimo anno sarebbe bello, l'ultimo giro di Pinot. Sicuramente, sicuramente è un corridore che è un altro che guarderemo con particolare interesse, fosse anche solo motivato dall'affetto per tutte le gioie che ci ha dato in questi anni di carriera. Sì, e ovviamente proveremo in questo giro anche a scambiare due chiacchiere con lui. Siamo qui anche per questo. Siamo al seguito del giro perché ci piace incontrare i corridori. E non perché forse ricomincia il buffet quest'anno. Io sono venuto per quello. Vabbè, vedremo. Siamo seduti sull'argine del fiume ad attendere. Il fiume che si chiamava come? Saline. Fiume Saline, dove Michele ha visto nuotare dei corridori oggi, credo. Ma passiamo invece, il giro non è soltanto, i grandi giri non sono solo classifica generale, sono tappe, sono fughe, sono altre dinamiche di corsa. Nomi, Michele, facci una sfilza di nomi che potrebbero essere caldi nelle prossime tre settimane. Non dirò Ben Healy, perché tutti stanno parlando di Ben Healy. Vorrei citare un po' appunto i nomi sparsi, prima di arrivare a due su cui è proprio il mirino. Sarò curioso di vedere cacciatori di tappe come Stefan Kung, che torna al giro dopo 7 anni, debuttanti al giro come Warren Barguil. Caden Groves è il nome più frizzantino tra i velocisti, vincitore di una tappa alla Vuelta già in volata l'anno scorso. Sì. Attenzione che Eddie Dunbar è in crescita della Jayco. Cose un po' a metà tra gregari e cacciatori di tappe sono Bob Jungels, Filippo Zana e Mats Wurz Smith. Questo nome è difficile, ok? E due giovani italiani come Zambanini e Verre. I due nomi più interessanti, però, cui accennavo prima, arrivano al giro in momenti di forma un po' opposti, e sono, abbiamo già parlato un minimo, Jay Vine, che ha vinto due tappe al Tour Down Under e la Generale, il campionato nazionale australiano a cronometro, due tappe alla Vuelta lo scorso anno, e sembra un corridore solo in procinto di esplodere dopo la Zwift Academy. Il secondo che attenzionerò è italiano, è Vincenzo Albanese, che in inverno durante il ritiro in Spagna è caduto, si è fatto molto male, ha ripreso a correre solo un mese fa al Giro di Sicilia, ma è andato molto forte, ha fatto la Vuelta Asturias pochi giorni fa, ha vinto la classifica a punti. Insomma, io prevedo per l'Albanese, magari, e spero anche, la sua prima vittoria in una corsa World Tour. Non è un giro che presenta un parterre di velocisti di livello storico. Ci ricordiamo giri con più velocisti o più importanti velocisti, però è un giro che presenta una straordinaria squadra di velocisti rimasti a casa. Esatto, però tra quelli che non sono rimasti a casa c'è forse quello più significativo degli ultimi 15 anni, che si chiama Mark Cavendish, che è al giro con la sua nuova squadra, l'Astana. Non ha iniziato la stagione nel modo migliore dal punto di vista dei risultati, però ci saranno degli arrivi in volata e sicuramente speriamo sia protagonista, insieme a Fernando Gaviria, insieme a Michael Matthews, altro nome importante che è alla via di questo Giro d'Italia, e Mats Pedersen, autore di una stagione di classiche enorme, mi viene da dire. Sì, per cui forse un po' stanco, ma vedremo, perché sono anche corridori che probabilmente vedremo per la lotta per la Ciclamino, lo capiremo. Il motivo per cui i velocisti sono pochi a questo Giro d'Italia non è perché sono antipatici, non è perché non gli piace la pizza, ma è semplicemente perché il percorso di questo Giro d'Italia non è che proprio strizzi l'occhio ai velocisti, è anche abbastanza comprensibile la scelta delle squadre di lasciare a casa le loro ruote veloci. Allora, per riassumere un po' tutto quello che ci siamo detti finora, io ho preparato un giochino per voi due, in cui vi proporrò delle domande, non è un quiz, non abbiate paura, vi proporrò delle opzioni e voi mi dovete dire una risposta, come dice, risposta multipla, due possibilità o più di due, qual è la vostra risposta rispetto a queste domande che vi sto per porre. Io e Kautz non abbiamo idea di cosa stia per succedere. No, assolutamente improvvisazione. Ma è un quiz a risposta multipla? A risposta multipla. Perché io rispondo sempre B nei quiz a risposta multipla. Potresti rispondere B, però non so se saresti d'accordo con quella risposta. Proviamo, cominciamo da una domanda semplice. Allora, chi vincerà più tappe tra Remco Evenepoel e Primoz Roglic? Roglic. Chi vincerà? Sì? B. Roglic. Era giusta la B. Chi vincerà più tappe tra Mats Pedersen e Michael Matthews? Wow. Bling. Quindi Matthews 0-0. Nessuno dei due vince una tappa. Nessuno dei due vince una tappa. Interessante. Brutto. Chi vincerà più tappe tra Mark Cavendish e Fernando Gaviria? 0-0. Gaviria. B. B. Interessante risposta. Chi vincerà più tappe tra Filippo Ganna e Stefan Kung? Bellissimo giochino. Ganna. Ganna. A. A questa volta. Adesso cambia la domanda. Attenzione. Chi finirà più in alto in classifica generale tra Theo Gegenhardt e Geraint Thomas? Gegenhardt. Thomas. Ah. Alexander Vlasov e Leonard Kemna. Vlasov. Sei un maledetto. Vlasov. Joao Almeida e Jay Vine. Già detto. Vine. Attenzione. Jack Haig e Santiago Buitrago. Buitrago. No, Haig, dai. Thibaut Pinot e Rigoberto Urán. Buitrago arriva nei primi 5. Attenzione. Pazzesco. Buitrago nei primi 5. Attenzione a questa adesso. Thibaut Pinot e Rigoberto Urán. Chi finirà più in alto in classifica? Mm-hmm. Chi finirà più in alto in classifica? Thibaut Pinot. Se ci dà un'altra intervista come quella del tour dell'anno scorso, Urán, dai. Domenico Pozzovivo e Timen Arensman. Pozzovivo. Pozzovivo. Evviva. Attenzione adesso, tra Mattia Baez e Davide Baez. Che quest'anno corrono nella stessa squadra. A Eolo, Cometa. Mattia Baez. Ma secondo me fregano i commissari, corrono nella stessa squadra, si scambiano di ruoli e alla fine, cioè, è difficile. Possiamo dirlo quello che finirà sulla carta, ma sappiamo che non sarà vero perché avranno fatto dei magheggi. E adesso questi due, perché li ho messi dentro solo per menzionarli. Aurélien Paré-Peintre o Valentin Paré-Peintre? Sono entrambi fenomeni, mi sembra chiaro. Sì, sì, sì, fenomeni. Aurélien. B, non mi ricordo più chi devi Valentin. E poi un triello, come si dice in questo caso. Fenomeni Paré-Peintre. I fenomeni. Chi finirà più in alto in classifica generale tra Lawrence De Plus, Lawrence Huis o Lawrence Rex? Beh, io dopo la Roubaix di quest'anno sono innamorato di Lawrence Rex, per cui dico C. C in questo caso? Io sono veramente affascinato da questo trittico di opzioni. Secondo me è quello di mezzo, perché è quello più dimenticabile. Lawrence Huis. Voglio dare un po' di sostegno a questo. Cambiamo domanda. Chi farà più chilometri in fuga tra Alessandro Tonelli e Davide Gaburo? Tonelli. Io una volta con Tonelli ho pedalato, quindi dico lui. Alessandro De Marchi o Magnus Kort? Chilometri in fuga. Dema. Ok, ultime due domande. Qui abbiamo quattro opzioni tra cui scegliere. Attenzione. Allora, quale italiano vincerà la sua prima tappa al Giro d'Italia tra Simone Velasco, Filippo Zana, Lorenzo Rota o Filippo Fiorelli? Qui sembra chi vuole essere milionari. Rota, ti è andato vicino una quantità di volte incredibile, dai, speriamo Rota. Quindi Rota per Filippo, per Michele. Si vincerà Rota una tappa sul mare, perché lui è forte dove sbucano i fiumi. Sì, esatto. E quindi è anche la tua risposta, Rota. Sì, dico Rota. E infine, chi vincerà sempre tra gli italiani, visto che non ce ne sono tantissimi, in teoria, protagonisti, la sua seconda tappa al Giro d'Italia? Quindi Alessandro Covi, Lorenzo Fortunato, Stefano Oldani o Alberto Dainese? Questo è un silenzio meditativo di cui ho bisogno. Qui era prima Dainese giù di sotto. Quindi è un elemento dirimente, sì. La Dainese, sua presenza. Dainese, qualche volta. Dainese, va bene. Velocista, tra l'altro, non l'abbiamo menzionato prima. Oldani. Stefano Oldani. Bene, grazie, cioè, per aver partecipato. Avrei detto 0-0-0-0. Però, puoi dirlo, però, puoi dire 0-0-0-0. Voglio credere in Oldani, che tante gioie ci ha dato la stagione scorsa e altre volte. Molto vero, grazie per aver partecipato a questo gioco. Potete farlo grazie anche a casa, signor conduttore. E adesso però direi che le risposte a queste domande, chi vince più in alto in classifica generale, sono legate a come saranno le tappe. Ora non scenderemo nel dettaglio delle 21 tappe del giro, però descriviamo un attimo com'è il percorso di questo giro. No, andiamo un po' rapidi anche a beneficio della nostra cena, perché se andiamo avanti a descrivere le 21 tappe non ne usciamo più. È un percorso bello, io parto subito, mi espongo immediatamente. C'era un'intervista a De Marchi l'altro giorno sul, mi sembra, Gazzettino del Friuli, ma adesso non voglio dire il titolo sbagliato, l'ho detto, probabilmente sbagliato. Diceva che è un giro che mette insieme tanta innovazione e tanta tradizione, e secondo me è molto vera questa osservazione e la sposo, come sposo la visione di chi l'ha disegnato. È un giro in cui, l'abbiamo detto, c'è un ritorno delle cronometro importanti, come non si vedeva da un po' al giro, ma in generale nel ciclismo negli ultimi anni, tra cui quella romagnola, la tappa nona, che farà dei bei buchetti, in classifica sono 35 km di piattone, che insomma sarà bello vedere, ma già domani inizia una prima settimana che è agitata ma non agitatissima, con una prima crono che comunque è corta e facile, ma non è un cronoprologo, per cui già qualche distacco lo segnerà. E poi si scende verso sud, ci saranno dei posti magnifici, tappe con tante salitelle ma raramente dure. Forse qualcuno salterà, perché dovremmo dire la frase domani, non si capisce chi vincerà il giro, ma si capisce chi potrà perderlo. Ma ecco, non è una settimana che resterà troppo nelle gambe, forse solo il finale sul Gran Sasso può restare più di tanto nelle gambe. Attenzione, che la tappa del Gran Sasso è comunque una tappa abbastanza monosalita, per cui non è un tappone, è una tappa con un finale sicuramente duro. La seconda settimana è la settimana per vocazione, per le fughe, e c'è qualche spazietto anche per i velocisti. La cosa bella della seconda settimana è che ci sono quasi sempre delle belle distanze, si va spesso intorno ai 200 o li si supera, e questa è una consuetudine che ritorna anche un po' alla tradizione, come dicevamo prima, ed è una consuetudine di questo giro, ed è anche uno dei motivi che mi fanno apprezzare questo percorso, che comunque è un percorso molto duro. Nella seconda settimana c'è la tappa in Svizzera, che ha 5.000 km di dislivello, vanno a Marte sulla Luna e indietro, 5.000 metri di dislivello, va due volte sopra i 2.000, anche se poi ha un finale abbastanza facile. Si chiuderà con la giornata di Bergamo, che sarà magnifica per tutto, un percorso bellissimo in una bolgia di folla, sarà tutto bellissimo quel giorno lì, lo sappiamo già. La terza settimana, massacro, è veramente, veramente dura. Si parte con la tappa del Bondone, che è un massacro vero e proprio, tappa magnifica, bassa quota, ma tanta storia, tanto dislivello, tante difficoltà, gambe imballate dal giorno di riposo, quella tappa lì è una tappa che può fare malissimo. C'è la tappa di Zoldo, verso, sembra sia la 18ª, che è un po' più facile, e poi si chiude con il tappone dolomitico, che non è un tappone perché forse è il più corto tra queste, però insomma molto molto bello, con quel finale, tre croci e tre cime, 3 più 3. E poi la famosa crono friulana, sulla quale oggi è emerso oggi qualche dubbio, c'era un articolo di Sporza che faceva emergere dei dubbi. Non lo so, penso che si farà, sì, vedremo cosa succederà. Devo dire che mi preoccupa poco, cioè mi preoccupa, è sempre brutto se ci sono dei problemi nello svolgimento delle tappe, mi preoccupa poco dal punto di vista classifica. Io credo che alla crono friulana si arriverà con una classifica già decisa, non la vedo come una tappa decisiva dopo cotante difficoltà della terza settimana. Non lo vedi come il contrappasso di Roglic, che, o il riscatto sarebbe meglio il caso di dire, rispetto alla planche de Belfi? No, perché no. La situazione è paragonabile, penultima tappa. La situazione è paragonabile, ma dopo una corsa completamente diversa. Ricordiamoci il Tour del 2020, era sì, il Tour più noioso che abbia mai visto. Trenino della Jumbo per 20 giorni, 19 giorni, e poi quella crono. E qui si arriva con un percorso durissimo, con una lotta aperta. Credo che arriveranno cotti, turbo cotti proprio alla crono scalata finale. E peraltro poi si devono ciucciare pure il trasferimento fino a Roma, poveri ragazzi. E non lo so. No, di Michele. Poi. No, questa narrazione di Roglic che si riscatta all'ultimissima cronometro è, no, una redenzione dell'eroe, molto interessante, affascinante, secondo me. Quasi uno scenario che mai acceso, bello. Si presterebbe bene per quella che, faccio un attimo un piccolo commento a questo percorso, per quella che io definisco la, parola difficilissima, Netflixizzazione del ciclismo. Ovvero, questo percorso è un percorso molto bello, ma segue questa tendenza ormai diffusa per cui le grandi corse a tappe devono decidersi nell'ultima settimana. E questo, secondo me, è una cosa che fa un po' male alle grandi corse a tappe, perché crea grosso imballamento, no? Crea che ci si guarda molto, si attende, si va a vedere cosa succede per arrivare all'ultima settimana. lì lì e poi qualcosa succede giusto alla fine. L'anno scorso è stato addirittura estrema questa cosa, no? È successo tutto negli ultimi due però chilometri dell'ultima tappa di montagna. Non è una tendenza recente del ciclismo, io ricordo certe... È una tendenza... No, ma è una tendenza recente secondo me non nello sviluppo delle corse, ma nel modo di disegnarle. E questo si presterebbe molto bene finire addirittura con questa storia di riscatto. Penso però che ci sia margine per rompere... Per rompere questa, c'è sempre margine per mandare in rovina questi grandi piani, e quello è anche un margine in cui alcuni corridori stanno a loro agio. Per cui io ricordo una delle cronache di Dino Buzzati che si lamentava di Bartali e Coppi che si guardavano troppo fino all'ultima settimana. Quindi è una dinamica che un po' c'è sempre stata. Io non farò pronostici, ne faccio uno vago perché non so dire quando, ma io sono sicuro che nel corso della terza settimana ci sarà almeno uno, se non due, corridori che saltano in questo Giro d'Italia, corridori di altissima classifica, e uno dei due potrebbe essere Remco Evenepoel. Lo dico così in modo vago, ma come questa immagine che si va creando della crisi di Remco, con tutto il bene possibile nei suoi confronti, in uno dei tapponi della terza settimana. Cos'è più affascinante, il giovane grande campione che arriva e si prende tutto, o il giovane grande campione che ha dolore di crescita, che sembra lì per farcela eppure non ce la fa? E a seconda di quello che vi piace di più a voi, a seconda della risposta, c'è anche forse quello che gradirete vedere nella terza settimana. In ogni caso si chiude sempre con LCL FIC, la corsa la fanno i corridori. La corsa la fanno i corridori, che è una frase da grandi saggi. E a proposito di grandi saggi, mi sembra che è arrivato il momento adesso di finalmente andare ad ascoltare quello che un grande saggio di un altro sport ci ha raccontato questa mattina. E perché questa mattina a Pescara, o a Silvi Marina per essere precisi, abbiamo incontrato Zdeněk Zeman e ci ha raccontato un po' di cose di ciclismo e non solo. Sì, ci ha raccontato, gli abbiamo chiesto un po' del suo rapporto con il ciclismo, ci ha raccontato di averne visti passare tanti di Giri d'Italia nelle varie città in cui è stato, e sono state tante, ma ci ha anche detto che di giri ne ha visti passare tanti, ma lui preferisce guardare il ciclismo in televisione. E partiamo da questo punto. È perché in televisione si riesce a seguire la corsa. Se vai sulla strada li vedi passare, non sai niente chi c'è, chi non c'è. Senta, quest'anno il Giro d'Italia parte dall'Abruzzo, lei è quasi un cittadino d'Abruzzo, perché ormai quasi è stato spesso, no? Sono stato spesso qua e so che in Abruzzo vanno molto, molto in bicicletta. C'è tanta gente che gira anche perché si adatta alla natura, nel senso ci sono pianure, ci sono salite, ci sono le discese, quindi si possono divertire. Ma lei in bicicletta ci va? Ci è andato? Io ci andavo, però quando giravo a Praga cadevo spesso perché i freni non funzionavano e quindi in discesa dovevo frenare con i piedi e non riuscivo. Dai. Se si ricorda, con quale bici pedalava a Praga? Ma io non so nemmeno che marca era, però era marca col manubrio da corsa. Col manubrio da corsa, però era... E i freni coi piedi? I freni non mi prendevano, come non li ho mai aggiustati. Tornando all'Abruzzo, qual è la cosa più bella dello stare in Abruzzo? Qual è la cosa che la fa più felice? È una bella regione, mi fa felice il mare perché sono più marino che montanaro e mi piace. La regione è bella, a parte che è anche florida, penso, con le industrie e quello che c'è in vino. C'è un suo collega, Maurizio Sarri, che qualche settimana fa, qualche tempo fa, ha detto che se lui dovesse scegliere tra guardare la finale di Champions o la Parigi-Roubaix, grande classica del ciclismo, lui sicuramente guarderebbe la Parigi-Roubaix. Bisogna vedere da dove, in televisione sì, in ma televisione. Sulla strada no, perché non ha senso. Però in televisione è una buona scelta. Sì. Ma anche la finale di Champions. Io li vedo le corse, perché ora ultimo era il Giro di Normandia, no? L'ho visto. C'è un corridore per cui fa il tifo nel ciclismo di oggi? No, anche se sono tanti bravi, penso a Roglic, penso a Evenepoel. Che sono tutti qua. Sono tutti qua. Per cui non le chiediamo di sbilanciarsi in un pronostico, che sarebbe un po' eccessivo. Io guardo anche i tre paesani, i miei tre ciechi, che anche se Terzo è stato convocato all'ultimo perché pensavano di fare una squadra per le pianure, e purtroppo nel giro pianure non ci sono, quindi all'ultimo hanno cambiato la squadra. E invece le è mai capitato di conoscere personalmente dei ciclisti nelle città in cui ha lavorato? E qua io ho conosciuto De Luca e Masciarelli, che mi hanno regalato bicicletta. Quella di De Luca me l'hanno rubata da garage, quella di Masciarelli ce l'ho ancora. Grazie mille. Prego. Credo che sia la prima volta nella mia vita che ho fatto un'intervista dando del lei costantemente al mio interlocutore. Non ce la facevo davanti a cotanta autorità, che abbiamo scoperto comunque sul pezzo. Guarda, sì, sapeva dei tre ciechi al via del giro. Sa sicuramente più di noi, adesso dobbiamo un attimo Michele, studiarli. Aiutami. Sono Vacek della Coratec, Cerny e Hirt della Lotto Quickstep. Ma della chi? Soudal dovrebbe essere quest'anno. Abbiamo perso il nome, adesso ci aggiorniamo un attimo e poi... Sì, beh, ci aggiorniamo infatti. Ma chi dei tre, ho capito, è quello che... Cioè, chi è che è stato cambiato perché hanno portato un corridore per fare le pianure e poi si sono accorti che c'erano le montagne? Non mi sfugge. Questo è degno del quiz di Piccione. Lo chiederemo, lo chiederemo al... Al sì, buon Zdeněk Zeman, che sappiamo che davanti alla televisione ci sarà lui. Sì, sì, però solo davanti alla televisione, non dal vivo, davanti alla televisione però. Allora, adesso proiettiamoci a quello che sarà domani, quindi la prima puntata di Gironimo, visto che questa puntata non esiste, la stiamo solo simulando in qualche modo. Prima puntata, futuro, quello che succederà. Quest'anno mi è stato detto che la nuova produzione di questo podcast, perché è tutto nuovo quest'anno, tranne noi, purtroppo per voi che ci ascoltate, ci ha proposto e ci offre una rubrica nuova in cui scruteremo, o i nostri esperti scruteranno le stelle per sapere cosa sarà del futuro dei corridori, ma anche nostro, credo. Le stelle si raccontano. L'oroscopo di domani dal genius di Asterio Trefortuna. Per il giro, per la tappa, per la vita. Ariete. Amico dell'Ariete, sta arrivando l'estate. Ci siamo capiti, l'estate, non dico altro. Toro. Allora Toro, io e te dobbiamo fare un discorso. Il Commodore 64 non esiste più, cioè non è che non esiste più, ti devi aggiornare Toro, ecco. Gemelli. Le stelle, gemelli, non ti vedono. Gemelli, trova la maniera di farti vedere. Come approccio, dico. Cancro. Dunque, la tattica di gara che devi seguire, secondo me, amico Cancro, è impostata sulla risposta della tattica 51. Capito? Tu, quando ti poni la questione, qua devo fare? 51. Leone. Leone, tu sei un leone. Questo ruggito lo devi tirare fuori. Che facciamo? Ci facciamo una cedrata? No, tu nell'arco della giornata di domani, a un certo punto, ruggisci. Vergine. Non date retta a Pasquale. Vergini, non date retta a Pasquale. Pensa con la testa tua, Vergine. Bilancia. Interrompiamo il corso di Zumba. Bilancia. Cambia la vita se interrompi il corso di Zumba. Domani! Scorpione. Amici dello Scorpione, nell'arco della giornata troverete una persona cara, ma voi non fate finta di non vederla, andate dritte. Sta cercando soldi, li vuole da voi. Sagittario. Oggi piove, venti moderati, cielo coperto. Ci siamo capiti, Sagittario? Capricorno. Butta la pasta, Capricorno! Butta la pasta, butta! 50 grammi in più pure, butta la pasta! Acquario. Acquario, guardiamoci negli occhi. Non te la potevi comprare la bici col cambio, eh? Pesci. Basta fare liste, pesci. Tanto che poi non la segui ste liste, allora che fai? Fai un'altra lista dove fai la lista delle liste che non hai seguito. Pesci, basta! Le stelle consigliano. Se leggi un libro in tedesco, lo capirai anche in italiano? Era, questa, era un oroscopo, previsioni del tempo. No, era un oroscopo ultra specifico su certi segni, cioè, con nomi proprio delle persone che incontra, e molto vago. Però vedi che non mi ricordo più il nome di questo astro... Asterio Tre Fortune, credo. Comunque credo che lo rincontreremo, questo sentore. E noto che, per esempio, io sono nato nel Cancro e dice segui la tattica di gara 51. 51. Che è un po' come io nei quiz rispondo B. Cioè, quindi c'è anche ragione. Mentre Pasquale... Pasquale non lo so. Io sono domani... Adesso andiamo a vedere quali sono i corridori nati sotto il segno del leone, perché domani voglio vedere chi ruggisce nel corso della crono. La tappa di domani, Michele, la cronometro iniziale com'è? In pochissime parole. 19,6 km sulla ciclabile che si affaccia sulla costa dei Trabocchi. Ti segnalo un punto chiave, che è dai meno 3 ai meno 1,7. Dal porto di Ortona a Corso Garibaldi, pendenza media di questi 1,3 km è del 5,4%, con una punta all'8. L'ultimo chilometro tutto su e giù per Ortona. Sveglia da puntare, mi raccomando ascoltatori e ascoltatrici, alle 16.34, perché parte Remco. Seguito da... Cioè, dormire fino alle 16.34. È una pennichella, Filippo. Mi sembra... Ma io sai bene che se questo è il programma lo sposo. Esatto. Diventa la mia giornata preferita nella storia del giro. Partono in stecca Remco, Roglic, Kung e Ganna. Per cui must see TV, come diciamo noi a San Francisco. Sì, però ti sei dimenticato di dire chi avrà la prima maglia rosa al termine tra tutti questi affilati uno dopo l'altro. Uno solo potrà indossare la maglia rosa. Chi sarà? Ganna. E sono d'accordo, così non ci ripetiamo. Filippo invece? B. O 51 potrebbe anche essere. Scusami, mi guardi chi è il 51 sulla starting list di questo Giro d'Italia? 51 anzi, potrebbe essere la media oraria. Aspetta, aspetta, ce l'ho sotto mano. Domani, a sorpresa, Vlasov, numero 51. In maglia rosa. No, penso anch'io, no. Avrei detto Ganna. Però anche Remco. Why not? Perché no? Perché no? Se ci sveglieremo, se punteremo la sveglia alle 16.34, forse lo scopriremo anche noi, oppure saremo a fare altro, perché abbiamo tante cose da fare in questo Giro d'Italia, tante cose vecchie che abbiamo fatto in passato, tante cose nuove che possiamo fare quest'anno, perché come abbiamo detto in apertura, saremo ospiti della squadra di sì. Shimano Italia, che è qui al Giro come ogni anno, e che sono una presenza imprescindibile, anche se non sempre vista o notata dalla TV, da Zeeman. Sì, da Zeeman, esatto. No, è talmente imprescindibile il servizio di assistenza tecnica neutrale che se non c'è alla partenza la corsa non parte. Sono due cose che sono obbligatorie per far partire una corsa, e sono il servizio di assistenza medica, l'ambulanza, insomma, il medico, e l'assistenza neutrale. Ai corridori no, cioè... Ma i corridori è tutto da vedere. Corridori. Allora, è difficile, perché siccome la corsa la fanno i corridori, se non ci sono i corridori non si fa la corsa. Però, però da regolamento potrebbe partire. È un dilemma esistenziale che ci porteremo avanti a lungo nella vita. E noi abbiamo una bella fortuna quest'anno perché Shimano ci ha aperto le porte di questa squadra, perché è una squadra vera e propria. Abbiamo fatto riunione di squadra oggi pomeriggio. Un briefing, come si dice. E nel corso di questo Giro d'Italia... Grazie a loro avremo anche l'occasione di entrare fisicamente dentro la corsa alcune volte, altre volte vi porteremo il loro punto di vista, i loro racconti di prima mano, le loro esperienze che sono infinite. Basti pensare che uno dei, insomma, il capitano di strada è Pietro Algieri, che ci ha raccontato ieri a cena di essere arrivato, se non sbaglio, al suo 44esimo Giro d'Italia, per cui... Qualcosa del genere, sì. Di storie da raccogliere ne avremo parecchie, e questa sarà una delle storie che vi racconteremo nel corso di questo Giro d'Italia, in cui ci piace dare la voce ai protagonisti. Aggiungiamo dei nuovi protagonisti, tanti altri li abbiamo raccontati nella nostra storia a bordo strada o i corridori, e quest'anno aggiungiamo qualcosa di più. Alcuni di loro, tra l'altro, i meccanici nello specifico, sono anche dei discreti corridori di resistenza, diciamo, perché il loro Giro d'Italia è iniziato prima di tutti gli altri. Incredibile ma vero, si sentirà dal vento, ma oggi pedalo persino io, faccio per una rarissima volta un contributo in bicicletta, non succederà per tutto il resto del Giro d'Italia. perché il Giro d'Italia inizia prima del Giro d'Italia. Oggi è il 2 di maggio, mentre registro, infatti sono sul vialone che taglia in due Pero, un lungo rettilineo che dalla porta di casa mia arriva fino alla porta della sede di Shimano Italia, dove sto andando a incontrare il servizio corse del Giro d'Italia gestito da Shimano, che quest'oggi inizia il suo giro con la giornata di allestimento. Potremmo chiamarle le viscere, il bunker, non so come, in ogni caso scesi sottoterra nella sede di Shimano Italia. Ci sono quattro figure fondamentali, credo, dell'assistenza tecnica neutrale che accompagnerà il Giro d'Italia, che sono Massimo, Nicola, Duilio e Sergio, però sono indaffaratissimi a caricare il furgone, a tirare su e giù materiali, a chiudere ruote dentro sacche portaruote con una velocità disarmante. Non andiamo troppo a disturbargli, li ascoltiamo di nascosto, poi li incontreremo con calma nei prossimi giorni. Una persona coppia, quattro, una persona coppia. C'è un aneddoto sul Filippo, sul nome di Alvento. Eravamo nel giro d'Italia, non mi ricordo l'anno, che è partito da Sanremo. Il briefing della sera prima, gli ho detto: ragazzi, mi raccomando, domani mattina gli orari devono essere quelli, se no rimanete al vento. Gli è rimasta sta cosa al vento, al vento, al vento, e tant'è che nel primo numero di Al Vento c'è un'intervista, credo fatta a me, su questa cosa. Vado a cercare. Vai a cercarla, poi mi dici se è così. L'avevo comprato anch'io, non so dov'è, però... Ecco, siamo completamente circondati da scatole di borracce, frigo, ruote, telai. Viene da chiedersi come possa entrare tutto ciò in un singolo furgone, deve essere una specie di Tetris, anche se mi sembra di capire che la tecnica è più che collaudata di carico. Ad ogni modo, seguiamo le borracce e saliamo a vedere al furgone cosa succede. No, tieni quelli pieni di borracce. Questi sono tutti pieni. Anche questo. Vedi? Questo sono tutti pieni. Questo nuovo si riporta giù. È pieno, eh? Ah, mettiamo quelle borracce perché. Ma le già caricate le borracce. 180, le abbiamo prese 180, abbiamo consumato 10 al giorno. Duilio, cominciamo a tirare sulle ruote. No, 3, quante sono 4. Le ruote? Sono 9, 27, 3 macchine. 9 a macchina più o meno. Tornano sempre tutte comunque. Sì. In teoria sì. No, teoria sì. Teoria sì, va bene. Per adesso sì, sono sempre okay. Rientrati. Basta. Carico completo. Sì. Completato il carico, sì. Bravi ragazzi, che è un capolavoro di geometria che siete riusciti a fare. Però c'è una cassetta fuori ancora, resta sempre fuori un pezzo. Arriva in macchina. A quella arriva. Ma è come quando tu monti e smonti le cose, dalle bici a tutto, no? Resta sempre, avanza sempre qualcosa. Un bullone di solito. Ah, sì. Perché probabilmente era lì in più. Non serviva. Quindi anche ai meccanici, quelli veri, assolutamente, questa cosa, non solo a noi. Nei prossimi giorni conosceremo meglio i nostri compagni di avventura di questo giro, parleremo con loro, parleremo anche, come abbiamo sempre fatto, con i corridori che poi fanno la corsa, anche se la corsa può partire senza di loro. E adesso inauguriamo questa rubrica, no, sì, inauguriamo una rubrica che vale solo oggi, che finisce domani, solo sì. Oggi, che si chiama Notte prima del giro, e parla di tre personaggi che domani esordiscono al Giro d'Italia. Uno di questi, il primo, non è un corridore, è un giudice di gara, nonché nostro ascoltatore e lettore storico. Si chiama Domenico Viggiano. Domenico Viggiano, detto Mimmo, se non ho capito male, e ci racconta in questo suo contributo in che ruolo domani lui esordirà al Giro d'Italia. Ciao ragazzi, eccomi qui. Raccolgo volentieri il vostro invito a raccontare brevemente la mia storia nel mondo del ciclismo, e per farlo devo necessariamente partire da un ricordo ben preciso, un panino al prosciutto, quello che faceva mia madre e che infilavo nello zaino quando, ormai diversi anni fa, accompagnavo mio padre alle sue corse amatoriali. E lì, tra l'odore dell'alcol e il ronzare delle catene, mangiavo il mio panino osservando i grandi adoperarsi per essere pronti alla partenza. La mia passione, posso dire, per il ciclismo è nata lì. Poi ovviamente è proseguita attraverso i teleschermi, seguendo le imprese di Marco Pantani, indimenticato soprattutto, ed è arrivata fino ad oggi, in un modo un po' particolare, ma assolutamente bello. Nel 2017 ho seguito il corso per diventare giudice di gara della Federazione Ciclistica Italiana, prima corso da giudice regionale e poi dal 2020 giudice nazionale. Ed ora che vi parlo, sono in procinto di partire per Fossa Cesia. Domani esordirò al Giro d'Italia 2023 come giudice in moto aggiunto per il prologo. Qui accanto a me ho la divisa, il casco, la giacca da moto, preparato tutto nei minimi dettagli e già questo mi emoziona tantissimo. E solo pensare di essere domani lì, esordire in un grande giro, in una corsa così importante, mi fa venire i brividi. Cosa mi aspetta? Quali sono le emozioni che proverò? Quello che so per certo è che nella grande famiglia dei giudici di gara della Federazione Ciclistica ho trovato una sponda salda da cui dar sfogo alla mia passione per il ciclismo. Amici e colleghi che sono squadra dentro e fuori le gare. Un mondo speciale ed un modo per arricchirsi umanamente soprattutto, che veramente sono felice di aver incontrato. Un po' come l'incontro con Filippo e Leonardo nel 2017, erano alla presentazione del loro libro Il 100 Giro e li ho conosciuti lì. E da allora, prima da fan assiduo, poi da ascoltatore, divoratore dei loro bellissimi podcast e ora piccolo protagonista con la mia storia. Vi mando un grande abbraccio, ragazzi, vi ringrazio veramente tanto per la passione che riuscite a trasmettere ogni volta e spero di vedervi dal vivo lungo le strade del Giro e di risentirci presto. Un grande saluto a tutti. E allora un grande in bocca al lupo a Domenico, che a partire da questa dedica che improvvidamente gli facemmo, no improvvidamente, è andata bene, poi è diventato davvero giudice di gara, domani esordisce al Giro, esordiranno ovviamente anche dei corridori, ci siamo fatti mandare un audio con le emozioni da notte prima del Giro da Martin Marcellusi, che è un esordiente della Bardiani, e da Alessandro Iacchi, che esordisce domani al Giro con la Corratec. Ciao a tutti, sono Martin Marcellusi della Green Project Bardiani CSF Faizanè. Sono qui a Pescara alla partenza del mio primo Giro d'Italia. E sono molto emozionato, ma soprattutto diciamo molto in ansia e molto preoccupato per quello che sarà, perché non avendolo mai fatto non ho veramente idea di cosa aspettarmi. E sarà un percorso duro, ma che ti metterà nelle gambe e anche a livello psicologico tanta esperienza, tanta fatica, e spero che mi aiuti nel mio percorso ciclistico, nella mia carriera, a fare quel salto di qualità tanto cercato, e speriamo vada tutto per il meglio per me e per la squadra e niente. Speriamo bene, dai. Un saluto a tutti e grazie mille. Ciao, sono Alessandro Iacchi, abito a Firenze, più preciso a Rufina, e questo è il mio primo Giro d'Italia e sono molto felice di essere al via e come tutti i corridori che iniziano da piccoli è il loro sogno, anche questo era il mio e sono felicissimo di essere alla partenza. Sono molto emozionato, darò il 100% per farmi vedere nelle tappe e per magari, perché no, cogliere anche un risultato. E allora in bocca al lupo anche a Marcellusi e Iacchi, bello sentire anche proprio l'emozione nella loro voce, bello e strano sentire un accento romano, perché Martin Marcellusi, oltre a essere il primo corridore che fa Martin per nome e non per cognome, perché si chiamano tutti Martin o Martin, non so se è il primo. No, il primo che mi sembra un po' azzardata. Non nella storia dell'umanità, però nella storia del nostro podcast, credo sia il primo corridore di nome Martin, uno dei pochi romani, perché non ci sono tanti ciclisti romani a mia memoria negli ultimi anni. Quindi Marcellusi e Iacchi e tanti altri al via domani del Giro. Come, Michele, potremo seguire, oltre ai corridori, anche quello che facciamo noi in questo Giro d'Italia? In molti modi i migliori sono i social di Alvento e i social di Bidon. Ciclismo liquido, lo seguite su Twitter, lo seguite nel gruppo Telegram, Bidon al Giro. Alvento anche ha un canale Telegram che si chiama Alvento. Italian Cycling Magazine. Quello è il mio completo. Alvento ha anche Instagram, Alvento ha anche un canale Twitter da seguire in cui scriveremo noi, scriverà Alessandro e Stefano magari che fanno le dirette da casa, seguono la cosa da casa e scrivono da casa. Io farò un pezzo giornaliero per la newsletter di Alvento, che da weekly diventa daily, ma solo per il Giro, non abituatevi troppo bene, daily per seguire... Abituatevi sempre bene, sì, giusto, comunque, giusto. No? Sì, sì, teniamo alte aspettative, Filippo? Teniamo le alte queste aspettative, perché... perché ci saranno tanti racconti, tante parole. Sarà un bel impegno anche per voi che lo seguite il Giro d'Italia da casa, stare dietro a tutto quello che vi racconteremo, ma io spero che ne valga la pena. No? Ne farà la pena? Voi no? Sì, no, certo. Io per esempio ho una cosa da dire su Martin Marcellusi, per chiudere se vogliamo, ovvero che ha fatto secondo nella sua gara di casa, il GP Liberazione, è una delle pochissime corse per Under 23. Recentemente, tra l'altro. L'anno scorso, sì. Ah, l'anno scorso, che, va bene. Che si corrono a Roma e lui ha fatto secondo nella corsa di casa, quindi insomma io tifo per questo corridore, comunque mi sta simpatico. Come vedete siamo molto bravi a scrivere la scaletta, ma poi alla fine ci perdiamo in ogni caso. E anche oggi siamo riusciti, anche alla puntata zero, già alla puntata zero siamo riusciti. Che non riusciti, esiste, quindi... Che non esiste, fortunatamente non esiste, speriamo che esista la nostra cena, per cui questa puntata che ha già una lunghezza da tappone ultra dolomitico, la concludiamo così augurando a tutti buon giro, perché... pare che domani cominci il Giro d'Italia. Dovrebbe, fino a prova contraria, domani comincia il Giro, comincia a Geronimo e ci vediamo a un certo punto sui posti che già sapete, non ripeterò certo adesso. Ciao! Ciao!